soon as you're born, they make you feel small. Per il rispetto del lavoro. Insomma, noi vogliamo il pane, ma vogliamo anche le rose. Working class hero is something to be. Eccoci di nuovo qui. Oggi la seconda parte, sempre qui al Paese Rose, della relazione che abbiamo potuto ascoltare alla Festa Rossa al Parco John Lennon, che c'è stata il 24 giugno scorso. Nella prima puntata non abbiamo ben specificato, mi hanno tirato le orecchie su questo. Sì, c'è stata la Festa Rossa del 23-24 giugno, organizzata dalla Sinistra Classe Rivoluzione, in cui nella prima parte si è parlato dell'Ucraina, il venerdì, il sabato si è parlato di lotta di classe. Abbiamo potuto ascoltare Jorge Martín. Nella prima puntata abbiamo sentito la prima parte della sua relazione e adesso sentiremo anche la seconda parte della sua relazione, in cui ci spiegherà anche, insomma, il suo punto di vista su quello, come, perché accadono certe cose e come dovremmo comunque agire, insomma, in tutta Europa. Ecco, ci ascoltiamo un bellissimo pezzo e poi ascoltiamo Jorge per la seconda parte ed ultima. You've been kept down. You've been pushed around. You've been lied to. You've been fed truths. Who's making your decision? Revolution. it's a revolution. Then there is France. Poi c'è la Francia. In France there has been a big strike movement. This has probably been more reported in the news. In Francia c'è stato un grande movimento di scioperi che ha avuto comunque una copertura da parte dei giornali, dei media. For several months between February and the beginning of June. Che è durato per diversi mesi tra febbraio e l'inizio di giugno. And this was over this main question of the pensions counter-reform. Sulla questione principale della controriforma delle pensioni. Sometimes it makes me laugh. Whenever the capitalists or the ruling class they want to introduce a tax on the workers, they call it a reform. Mi fa ridere il fatto che quando i capitalisti vogliono portare avanti degli attacli, li chiamano riforme. When in reality what we're talking is about a counter reform. In realtà stiamo parlando di una controriforma. They want to increase the age of pensioning by 2 years. Vogliono aumentare l'età pensionabile di 2 anni. But of course everybody knows that this is just one step. If this is accepted, then there will be more attacks. Ma naturalmente tutti sanno che si tratta solo di un primo passo dopo il quale ci saranno altri attacchi. So a movement started. E così è cominciato un movimento. And this is not new. In France, every 2 or 3 years there are big movements of the workers against government tax. Questa non è una novità. In Francia ogni 2 o 3 anni ci sono grandi movimenti di lavoratori contro gli attacchi dei padroni. But this time I think there were some special features of this movement that make it more important, more significant. Ma credo che questa volta questo movimento abbia avuto delle caratteristiche che l'abbiano reso più significativo. First of all, the trade union leaders of the CGT and the other main unions. Prima di tutto, i dirigenti sindacali della CGT e degli altri principali sindacati. They started by saying, we're going to use the same tactics as before. We're going to call a 1 day of action, and then 2 weeks later, another 1 day of action, and then maybe 3 weeks later, another day of action. Sono partiti dicendo faremo come tutte le altre volte, convochiamo una giornata d'azione, poi aspettiamo 2 o 3 settimane, poi ne facciamo un'altra, poi ancora qualche settimana, poi un'altra ancora. And this is a completely useless tactic, che è una tattica completamente inutile, which has only one effect, che ha solo un effetto, which is that by the end the workers get tired, che alla fine i lavoratori si stancano. People don't see the point in going to another 1 day of strike when the government is not responding. I lavoratori non vedono il senso di andare a fare delle giornate d'azione quando il governo non reagisce. These days of action become smaller and smaller. E queste giornate d'azione diventano sempre più piccole. And then the trade union leaders they say, oh look, the workers don't want to strike, there's nothing we can do. E quindi alla fine i dirigenti sindacali dicono, vedete, i lavoratori non vogliono lottare, quindi dobbiamo ritirarci. This has happened in France many times. Questo è successo tante volte in Francia. But this time many workers were saying, we're not satisfied with this so-called strategy. Ma questa volta molti lavoratori hanno detto non siamo soddisfatti di questa cosiddetta strategia. And important sections of the workers, they decided to go on what they in France they call a renewable strike. E diversi settori di lavoratori sono scesi in quelli che vengono chiamati scioperi rinnovabili. That means that you have a mass workers assembly. Che significa che ci sono delle assemblee operaie di massa. Let's say on Monday. Diciamo il lunedì. And the strike is voted and the strike is lasting until the end of the week. Si vota per lo sciopero che poi dura fino alla fine della settimana. And then at the end of the week you have another mass strike and you vote to renew the strike for another week or for another few days or whatever it is. E poi alla fine della settimana c'è un'altra assemblea che vota nuovamente per portare avanti lo sciopero per degli altri giorni, per un'altra settimana. And this happened for instance amongst the refuse collection workers and the incinerators, in rubbish incinerators workers in Paris and other big cities. Questo è successo tra i lavoratori degli inceneritori di Parigi, tra i lavoratori dei freni turbini. But also very importantly amongst the oil and petrochemical workers. Ma in maniera significativa tra i lavoratori del settore petrolchimico, del petrolio. And this is an interesting thing. E questo è molto interessante. We are told that the working class doesn't exist anymore. Ci si dice che la classe lavoratrice non esiste più. Yes, in the past it exists, but today is no longer the same. Dicono sì, forse esisteva in passato, ma oggi non è più così. But Macron, in the middle of these strikes, he said. Nel mezzo di questo sciopero, Macron ha detto. We cannot accept this situation. Non possiamo accettare questa situazione. He was talking about the oil and petrochemical workers. Parlando dei lavoratori del petrolio e dei petrolchimici. A small group of workers, a handful of workers, are taking the whole country to ransom. Ha detto un pugno di lavoratori, un piccolo gruppo di lavoratori sta mettendo il paese nei guai. Because in fact the oil workers are not many, but there's a few hundred oil workers in key installations around the country. Perché di fatto i lavoratori petrochimici non sono molti, sono alcune centinaia, ma insediati in appunto insediamenti fondamentali but in diversi punti del if paese. If they go on strike. E se vanno in sciopero, after a few days, dopo pochi giorni, there's no petrol in the petrol stations. Non c'è carburante nei benzinai. There's no fuel for the planes in the big airports. E neanche per gli aeroplani nei grandi aeroporti. And then a big crisis starts. E quindi comincia una grande crisi. And what does this tell you? E cosa dice questo? Not only that the working class still exists. Non solo che la classe operaia esiste ancora. But that today even a small group of workers has an enormous power in society. Ma che oggi anche un piccolo gruppo di lavoratori può avere un enorme effetto sulla società. And the other thing is, e l'altra questione è che it's not true that is a small group of workers taking the whole country to ransom. Che non è vero che si tratta di un piccolo gruppo di lavoratori che mette il paese sotto sopra. Because in fact 85% of the population was against the counter reform of the Macron government. Perché di fatto l'85% della popolazione è contro la controriforma delle pensioni di Macron. So you could very well say, and you will be right, that a small group of capitalists and capitalist politicians are holding the whole country to ransom. Quindi in realtà si può dire il contrario, che un piccolo gruppo di capitalisti sta portando il paese. Imagine if there was such an opposition to this counter-reform. Immaginate che c'è stata una tale opposizione a questa controriforma. That when the government of Macron went to parliament, had to go to parliament to get this reform approved, this counter-reform approved. Che quando il governo ha portato questa controriforma in Parlamento perché fosse approvata, the members of parliament, not the left wing members of parliament who were going to vote against, but the right-wing members of parliament. I parlamentari, non quelli di sinistra che chiaramente avrebbero votato contro, ma quelli di destra, were not prepared to vote in favor. Non erano pronti a votare, preparati a votare a favore. Because the mood in society was such. Perché il clima nella società era tale. Many of them were surrounded in the local offices in the regions where they come from by angry protesters. Molti di questi parlamentari si sono ritrovati asserragliati nei loro luoghi di provenienza, nei loro uffici, da lavoratori arrabbiati contro la controriforma. And many right-wing MPs from Macron's party and from the Republicans were so afraid that if they voted in favor of this reform, they will never be elected again. E molti parlamentari, sia del partito di Macron che dei repubblicani, erano spaventati dal fatto che se avessero votato a favore della controriforma non sarebbero più stati rieletti. And of course, capitalist politicians always defend the interest of the capitalist class. Naturalmente i politici capitalisti difendono gli interessi della classe capitalista. But sometimes they are also moved by another motive, which is to defend their own position as members of parliament, which is very profitable. Ma a volte sono anche spinti da un'altra ragione, che è difendere il proprio posto in Parlamento, so che è molto the Macron government was unable to pass this through parliament, and they had to pass this counter reform through emergency decree powers. E quindi il governo non è riuscito a far passare questa riforma da un voto parlamentare, ma attraverso un decreto d'emergenza. And this tells you something about how bourgeois democracy works. E questo ci dice qualcosa su come funziona la democrazia borghese. It's not the will of the people or the will of the majority. Non si tratta della volontà del popolo, della volontà della maggioranza. When it comes to decisive things, quando si tratta di questioni decisive, it's the will of a handful of unelected wealthy parasites that prevails over the general interest of the nation or the working people of a country. È la volontà di una manciata di parassiti che prevale, di ricchi, di parassiti che prevale sugli interessi della stragrande maggioranza della popolazione. So another thing about these French strikes. Un'altra questione sugli scioperi in Francia. The government attempted to use emergency powers, national security powers against the strikers. Il governo ha cercato di usare le forze di sicurezza nazionale contro gli scioperi. This happened in many places. Cosa che è successa in But I'll just give you one example. Ma vi do solo un esempio. There is this petrochemical plant called Normandy in is a Total plant in Normandy, petrochemical plant. In questo impianto petrochimico della Total che si chiama Normandy, which supplies fuel to the main Paris airport. Che rifornisce di carburante i principali aeroporti di Parigi. And so the government used emergency powers to requisition workers to force them to go to work. Il governo ha usato dei poteri di emergenza per costringere, per precettare lavoratori a e costringerli a lavorare. Now this is no joke. If you refuse, if you violate a requisition order, this is a matter of national security. Non è uno scherzo, se ci si rifiuta di fronte a una misura di emergenza come questa, è una questione di sicurezza nazionale. You can have a fine of up to 6,000 euros and you can go to jail. Si possono avere multe fino a 6,000 euro, si può anche andare in galera. But what happened was this. Ma cosa è successo? The police, the riot police, went to the houses of the workers early in the morning. La polizia, la polizia antisommossa è andata nelle case dei lavoratori la mattina presto. They took them in front of the families and children. Li ha presi davanti alle loro famiglie, davanti ai loro figli. And they took them to the plant. Li hanno portati all'impianto, nell'impianto petrolchimico. They had to go through hundreds of pickets to go into the plant. Passando attraverso decine di picchetti nella strada che li portava verso l'impianto. And they forced these workers to restart production. E hanno costretto questi lavoratori a far ripartire la produzione. The small problem was. Ma il piccolo problema è stato. Yeah, there was production again in the plant. Che sì, la riproduzione è partita nell'impianto. But the drivers of the oil tankers refused to work, and there were hundreds of pickets outside that prevented anything from coming in or out of the plant. Ma poi i lavoratori della logistica che dovevano prendere appunto i carburanti e portarli nei posti di destinazione sono rifiutati and di this, farlo. And this gives you another example of the power of the working class when it's organized. E questo ci dà un altro esempio del potere della classe lavoratrice quando organizzata. But now you're gonna ask me, but this movement finished. Ma adesso voi mi direte sì, ma questo movimento è finito. Yeah, the movement has finished. The counter reform has been implemented. Sì, è vero, il movimento è finito, la controriforma è passata. Why is this? Ma perché è successo? Well, the reason for this is that the sections of the workers that were against the strategy of the trade union leaders. Il motivo è che quei settori di lavoratori che erano contro la strategia dei dirigenti sindacali. This section was not strong enough, not organized enough, and not coordinated nationally enough. Non sono stati abbastanza forti, abbastanza coordinati a livello nazionale. In order to break the strategy, the wrong strategy of the trade union leaders and impose another one. Per rompere la strategia sbagliata delle direzioni sindacali e imporne un'altra. But something happened during the strike. Ma qualcosa è successo durante questi scioperi? Which was the emergence of a left-wing tendency within the CGT, which is the main trade union confederation. Che è stato l'emergere di una corrente di sinistra all'interno della CGT, che è il principale sindacato. And this tendency is called Unity CGT. E questa tendenza, questa corrente si chiama Unità CGT. And they were advocating precisely this, all-out strikes of the key sectors as the only way to win this struggle. Che chiedevano scioperi ad oltranza dei settori chiave per poter vincere la lotta. And I will say that this is very significant. E penso che sia molto significativo. Because in the CGT there's no tradition, there's never been any tendencies or anything like this. Perché all'interno della CGT non c'è una tradizione di correnti interne come questa. And this CGT unity, if you read their documents, they use a very radical class struggle language. E questa corrente unità CGT, se si leggono i suoi documenti, si vede che usano un linguaggio molto radicale, molto combattivo. It says, for instance. Per esempio. It says, class struggle trade unionism. Per esempio, il sindacalismo della lotta di classe. Means the union of all the exploited. Significa l'unione di tutti gli sfruttati. For the defense only of their own class interests. Per la difesa esclusivamente dei propri interessi di classe. Excluding any illusions. Escludendo ogni illusione that there can be any convergence of interest between exploiters and the exploited, che ci possa essere qualsiasi convergenza di interessi tra sfruttati e sfruttatori, and rejecting any tendency towards collaboration with the bosses and the bourgeois governments, e rigettando ogni tendenza alla collaborazione con i padroni e con il governo borghese. Our aim it is to transform the CGT into a revolutionary union. Il nostro compito, il nostro scopo è trasformare la CGT in un sindacato rivoluzionario, which fights for the immediate defense of the material and moral interests of the workers, che combatta per la difesa degli interessi materiali e morali dei lavoratori, but also struggles, ma che lotti anche in the long term, nel lungo termine, for the revolutionary transformation of society, per la trasformazione rivoluzionaria della società, the abolition of the exploitation and the capitalist exploitation and oppression, l'abolizione dello sfruttamento capitalista e dell'oppressione. And this is not a small group of workers. This tendency managed to defeat the leadership of the CGT at the congress that took place during the strikes. E non si tratta di un piccolo gruppo di lavoratori. Questa corrente è stata in grado di sconfiggere la maggioranza del sindacato in una votazione nel congresso della CGT. So I will say, what are the lessons that we can draw from these events? E quindi, quali sono le lezioni che possiamo trarre da questi avvenimenti? The struggle in Britain, the struggle in France. Dalle lotte in Gran Bretagna, dalle lotte in Francia. And similar movements that are developing in Germany, for instance. E movimenti simili che si stanno sviluppando, ad esempio, in Germania. One. We live through a period of capitalist crisis. Uno, viviamo in un periodo di crisi capitalista. And the capitalists want us to pay for their crisis, their system. E i capitalisti vogliono far pagare a noi la crisi del loro sistema. And the only way to face up to this challenge is through organization and struggle. E l'unico modo per fronteggiare questa sfida attraverso l'organizzazione e la lotta. The working class is potentially very strong. La classe operaia potenzialmente molto forte. Because in a capitalist society it can bring everything to a halt. Perché nella società capitalista può far fermare qualsiasi cosa. But unfortunately, most of the times. Ma purtroppo, nella maggior parte delle volte. The workers are not fully aware of this situation. I lavoratori non sono pienamente consapevoli di questa situazione. And not only they're facing an obstacle of the capitalist class, many times they're facing the obstacle that their own trade union leaders do not believe in the struggle of the working class. E quindi non solo hanno un ostacolo, diciamo, nella classe dominante, ma anche nelle loro direzioni sindacali nel condurre la lotta. What is necessary is clear. Quello di cui c'è bisogno è chiaro. The united struggle of the workers. La lotta unita dei lavoratori. In one country and in all countries. In un paese e in tutti i paesi. As the comrades of the CGT left say, for their immediate interests. Come dicono i compagni della sinistra della CGT, per gli interessi immediati, but also for the revolutionary transformation of society. Ma anche per la trasformazione rivoluzionaria della società. And this is what the international Marxist tendency is trying to fight for. E questo è quello per cui la tendenza marxista internazionale cerca di lottare. This is the perspective that we want to bring into the trade union movement. Questa è la prospettiva che vogliamo portare nel movimento sindacale. And it is the only perspective that can guarantee victory. Ed è l'unica prospettiva che può garantire la vittoria. In a period in un periodo of capitalist crisis in which we are going to ask to be asked again to pay the price for the crisis of their system. In un periodo di crisi capitalista in cui ci viene ancora una volta chiesto di pagare per la crisi del loro sistema. Allora, eccoci, siamo qui. Ora, io fare le conclusioni dopo questa relazione di Jorge Martin è veramente, non riesco nemmeno a farla. Lui ha detto tutto. Andatevi ad ascoltare chi si è perso la prima puntata, la seconda, trovate il podcast nel Panele Rose. Mi raccomando, seguiteci sulla pagina Facebook, così potete ascoltare tutte le puntate che vi siete persi. Andatevi ad ascoltare. Io, in conclusione, cosa posso dire? Che Jorge ha centrato il punto quando parla della sinistra, della CGT e della posizione così marxista, così rivoluzionaria, fa capire che c'è possibilità anche all'interno dei vari sindacati di creare dei forti movimenti anche rivoluzionari nei sindacati che non lo sono. Adesso ripeto, quello che posso dire è che ci ha fatto capire Jorgen questa relazione che la lotta di classe è possibile, in Europa le condizioni ci sono perché in tutti i paesi possa scoppiare quello che è successo in Inghilterra, in Francia, in Germania, in parte anche in Spagna, in altri paesi, e soprattutto che anche se si perde dalle battaglie fatte fino alla fine, fatte in maniera onesta, nasce qualcosa e rimane qualcosa che può essere utile per le prossime battaglie, però bisogna farle. Non come in Italia, che purtroppo le battaglie non vengono fatte e spesso quando non vengono fatte, come ci ha spiegato anche lui, c'è la demoralizzazione che non costruisce nulla, anzi c'è un arretramento. Ecco, la nostra speranza è che anche in Italia si vada avanti verso uno sciopero generale, che la FIOM riesca a convincere la CGIL a mobilitarsi e a coinvolgere tutti i sindacati per una grande mobilitazione che noi in Italia ne abbiamo bisogno forse anche più degli altri paesi. Questa speranza io vi lascio e ci sentiamo alla prossima puntata. Orgulloso de estar, orgulloso de estar entre el proletariado, entre el proletariado. Es difícil llegar a fin de mes y tener que sudar y sudar para ganar nuestro pan.